L'ultima pagina di uno dei giornali che non parla di curdi, nella fattispecie La Repubblica del 27 gennaio, qualche giorno fa, è tutta occupata da un annuncio pubblicitario a carattere di scatola. Se il tuo è vero amore, recita, amore è scritto grandissimo, anche il tuo gioiello deve essere vero, e vero è scritto ancora più grande di amore. E evidentemente è la pubblicità di una catena di gioiellerie, che propongono con il dovuto anticipo le loro offerte per la ricorrenza di San Valentino, patrono degli orefici, però un suo tono perentorio che colpisce, insomma, perché già uno dice, se è vero amore ci vuole un vero gioiello, non si discute. Non volete mica offendere colei o colui da cui dipende la vostra felicità imponendogli di portare al dito, al collo, all'orecchio o al naso, se appartiene alle più giovani generazioni, un volgare fondo di bottiglia, no? Solo in seconda battuta uno si rende conto che la proposizione non è così convincente e la sua formulazione sembra esprimere una certa consequenzialità secondo lo schema del se allora, ma non contiene affatto una necessità logica, non è un sillogismo. Provate un po' a metterlo in forma identificando la premessa maggiore e quella minore e vedrete. E non risponde nemmeno ai dettati dell'esperienza empirica, perché sappiamo tutti che se l'amore è vero, beh, allora di doni costosi può fare a meno, perché l'unico dono che l'amore prevede è quello di sé. E d'altra parte, un gioiello vero, nel senso corrente del termine, può garantire la solidarietà finanziaria, la propensione al consumo di lusso di chi se lo può permettere, ma nulla assicura quanto alla solidità dei suoi affetti e di quelli che lo ricevono meno ancora. I committenti e gli autori di quella pubblicità evidentemente non hanno tenuto presente il finale di Colazione da Tiffany. E poi riflette il lettore ozioso aprendo il giornale, che cavolo significa vero? Non il vero amore, per carità, è un concetto che in questa sede non vogliamo neanche provare a definire, ma che cos'è un vero gioiello? Un gioiello presumibilmente è vero se non è falso, ma questo non dice molto. È vero quando, anche se realizzato in lamierina e cocci di vetro, pretende di essere fatto di platino e brillanti, d'accordo. Ma a parte il fatto che quella pretesa non può essere attribuita al gioiello, che in sé non pretende nulla, ma al massimo ai suoi utenti, chiamiamoli così, è un gioiello di fantasia, uno che non negasse ma anzi evidenziasse l'umiltà delle sue componenti, ma esprimesse comunque l'ingegnosità e l'inventiva del suo creatore. Non avrebbe tutti i diritti a essere definito vero? Non vorremmo mica identificare la verità col prezzo, no? Ahimè. A pagina 23 dello stesso giornale, un titolo su 5 colonne riporta il parere del cardinale Saldarini, arcivescovo di Torino, a proposito di quel triste caso del bambino che i genitori hanno voluto far nascere anche senza corteccia cerebrale e senza prospettive di sopravvivenza, per motivi che non perché siano solo loro, come qualcuno ha scritto, ma perché meritano comunque rispetto, non ci permetteremo qui di sindacare. È un bambino vero, dice Sua Eminenza, tra virgolette, è giusto che viva. Ecco, io non so proprio cosa intendesse il cardinale per bambino vero. So però che non poteva dire altro. Non poteva dire che era un bambino come gli altri, perché purtroppo tutti sapevano che non lo era, e non poteva dire che bisogna sempre sperare, perché sapeva anche lui che di speranze non ce n'erano. E infatti quella povera creatura è morta 2 giorni dopo quella dichiarazione. Forse il cardinale ha scelto quell'aggettivo proprio in funzione della sua ambiguità. O forse ha detto vero perché si rifila alla verità, a quella che lui considera la verità della dottrina della sua Chiesa in tema di maternità e di libera scelta. In quel caso quell'agghiacciante è giusto che viva, che non aveva senso, riferito a chi vivere non avrebbe comunque potuto, andava letto come un imperativo. È giusto attenersi alle nostre prescrizioni. Dovete fare tutti così, che è un atteggiamento degno forse di un cardinale, ma di un vero pastore di anime proprio no.